Radio 24 Reportage. Dall'Italia all'Albania, inversione di rotta. Da Tirana, Raffaella Calandra. Ora che la compagnia aerea locale, la Bel Air, è in crisi, l'Italia ha subito aumentato i voli, destinazione Albania, la nuova rotta di un'emigrazione al contrario. Qui torna chi 20 anni fa era partito per mare, qui sbarca sempre più spesso chi nel bel paese non trova più spazi. Ci siamo trasferiti per sfruttare una nuova opportunità di business in un paese molto vicino all'Italia, soprattutto costretti dalla crisi che c'è in Italia. Seduta ai tavolini di un bar, mentre il muezzin di Piazza Skanderbeg diffonde la sua preghiera, Silvia Minotti si guarda intorno e sorride, agli scherzi della vita innanzitutto. Lei infatti ora, da imprenditore nel settore dei rifiuti, ha scelto di trasferirsi qui, a Tirana, proprio laddove un tempo il Fondo Monetario Internazionale voleva mandarla e lei rifiutò. Ma anni dopo, cambiata vita e stato civile, con una riflessione che unisce calcoli scientifici a intuito romagnolo, ha ripensato proprio all'Albania. La prima volta che sono arrivata a Tirana fu nel 1999. Mi ricordo ancora che eravamo a Rogner, c'era soltanto questo albergo qui per gli stranieri, costosissimo peraltro. Molto inesperta, io arrivai col bancomat e la carta di credito, dove non c'era nemmeno un posto. Ho visto dei cambiamenti stratosferici e quindi, quando ho pensato, ma dov'è che possiamo fare qualcosa sui rifiuti? Sicuramente in un paese più indietro rispetto a quello italiano, dove però c'è una voglia di Europa e dove la legislazione più o meno non è altro che il risultato di un taglia copia e incolla delle direttive europee, e questo è quello che ha fatto l'Albania. E quindi abbiamo preso un'idea italiana nel mondo dei rifiuti non pericolosi. Siamo gli unici che raccogliamo il vetro cavo, raccogliamo della carta, raccogliamo delle cartucce d'inchiostro, cioè raccogliamo delle cose, vecchi computer, che in Italia ormai fanno tutti, mentre qui ci sentiamo un po' speciali perché siamo unici in tantissime cose. Gli insegne che parlano italiano sono piene nelle strade di Tirana e negli ultimi mesi, nei voli quotidiani che collegano Milano, Roma, Pisa, Pescara alla capitale albanese, c'è sempre almeno un imprenditore che decide di andare nel paese delle aquile, spinto da un PIL in continua crescita, da un legame storico e dal fatto che l'italiano è la seconda lingua e l'euro la seconda moneta. Arrivano ristoratori, sbarcano in blocco le società di call center, si trasferiscono professionisti come i commercialisti o avvocati come Michela Marucci, che ha lasciato Roma per venire a lavorare in uno dei principali studi legali, a cui si rivolgono proprio gli altri italiani che stanno meditando il suo stesso passo. Prevalentemente piccole e medie imprese e poi le grandi società. Queste società medio-piccole di cosa si occupano? Servizi tipo call center prevalentemente, ma un po' di tutto, social network. Una tassazione più bassa e anche meno burocrazia rispetto all'Italia. Sì, per costituire una SRL, una società a responsabilità in Albania, basta un capitale di 100 lek, ovvero 70 centesimi, e la costituisci in 24 ore. Al di là della scelta personale, hai anche valutato il fatto che stessi andando in una realtà con delle chance di crescita anche professionale? Diciamo che ho valutato quelle che erano le mie prospettive di crescita in Italia, avevo delle buone aspettative, però ho seguito la strada della follia. Stanno aumentando anche i professionisti come te che stanno arrivando qui a Tirana? Sì, sì, sì, sia avvocati che commercialisti. L'Albania sta per entrare in Europa, è un paese in via di sviluppo, i più intuitivi sono venuti qui 20 anni fa. Che tipo di informazioni chiedono? Che cosa vogliono sapere? Che cosa interessa alle società italiane per venire a investire qui? Loro vogliono sapere prevalentemente come funziona il diritto commerciale albanese, quindi cosa occorre, cosa conviene. Se sanno già della burocrazia quasi inesistente e della tassazione inconfrontabile, se sanno già che un operaio qui costa 200 euro, quello che gli imprenditori prima di trasferirsi vogliono anche conoscere sono le regole sindacali, quelle sulla maternità e sui licenziamenti. Secondo una ricerca Istat del 2012, almeno 1.400 aziende hanno un socio italiano, ma quelle effettivamente stabilmente operative si riducono a 400, calcola l'ambasciata. Partono dall'Italia sempre più italiani, tornano con ben altra stabilità economica moltissimi albanesi, come Altimprenga, che ha aperto un punto slow food nel distretto di Leza. Abbiamo aperto il primo gruppo di sostegno di slow food in Albania, sono rappresentante ufficiale di slow food in Albania. Ho voluto adottare in modo albanese questo concetto mondiale che è di oggi, insomma, e del futuro, penso io. Volevo insegnare un po' anche i miei, che sono oggi aperti al contrario al consumo delle cose estere, ancora non saziati dal divieto di non mangiare queste cose. Quando è che ha capito che era il momento di tornare in Albania? Intanto non mi sentivo un po' più realizzato, perché non mi sentivo completo. Il successo di questo ristoratore è lo stesso successo di Arturo, che nel cuore del blog La Movida di Tirana sta riproducendo ai tavoli tutto ciò che ha imparato soprattutto in Toscana e grazie ai risparmi di quasi 30 anni lì, ora sta per aprire un albergo al mare da quest'altra parte. Che io faccio una specialità diversa, molto una cucina più alta, insomma, più specializzata. Il fatto che lei adesso abbia anche più mercato qui è segno del fatto anche che l'Albania sta crescendo anche come paese, anche economicamente? Gli ultimi 5 anni veramente sta cambiando tutto, anche come specialità, la gente qui vuole mangiare davvero bene, insomma, non è come prima che non sapevano, non conoscevano i piatti. C'è anche più disponibilità economica. 30-40% della popolazione può venire al ristorante. E questo state facendo anche tutti quanti voi albanesi che state tornando adesso qui in Albania, riprodurre qui lo stile di vita italiano. Io sono uno dei primi che ho portato l'esperienza italiana in Albania. Io ho sempre detto che ragazzi dobbiamo vivere, dobbiamo lavorare come fa in Italia. Per me è un simbolo. L'Albania non è più il paese che esportava disperazione su ogni centimetro quadrato della Vlora, la nave simbolo dell'immigrazione degli anni 90. Oggi l'Albania guarda l'Europa e impara sempre più ad apprezzare pure l'arte, racconta Artan Ashanani, direttore della Galleria d'Arte Nazionale. Anche lui prima era in Italia, ma ora l'energia, ci racconta, la sento soprattutto da quest'altra parte dell'Adriatico. Io sono tornato in Albania dopo 22 anni vissuti in Italia. Ho assorbito negli ultimi anni in Italia una decadenza culturale, ho assorbito un clima sistematico di un pessimismo della società italiana. In quale città si trovava in Italia? Ho vissuto a lungo in Piemonte, nella città di Torino, e poi ho vissuto anche in Veneto, nei pressi di Venezia. E nei primi anni che ho emigrato in Italia, come molti albanesi, in Salento, in Puglia. Quando e in che modo ha cominciato a avvertire questa decadenza di cui parla? Oggi gli italiani sono meno curiosi, sono più annoiati e questa noia forse è il benessere degli ultimi 40 anni o anche di più. Ho avvertito una certa aggressività che cercano valvole di sfogo con una cultura di una forma separatista e poi ho avvertito che c'è molto pregiudizio. Quando è tornato a vivere e a lavorare in Albania? Negli ultimi mesi. Io in Albania avverto questa energia nei giovani, questa voglia di vivere, voglia di riscatto, questa apertura verso il mondo e questa energia positiva che fa tornare non solo albanesi, ma fa tornare o andare anche cittadini europei, non solo, verso l'Albania. Se l'interesse per l'arte è ancora timido, quello che invece da anni è esploso è la corsa ai titoli di studio. Così c'è stato il boom delle università private. 300 studenti italiani, parte dei 3.000 connazionali presenti qui, frequentano ad esempio le aule della Nostra Signora del Buon Consiglio, gemellata con Tor Vergata, per le discipline mediche. Ma ci sono anche italiani finiti nei guai per aver conseguito un diploma senza aver mai partecipato ad un corso, come Renzo Bossi. È lo scandalo dei 60 atenei diventati un business che il ministro dell'interno Samir Tahiri ora vuole bloccare. Stiamo pianificando di fare un controllo di qualità su quello che succede. Abbiamo avuto dei casi che li stiamo indagando anche, studenti italiani che anche senza venire qua hanno preso il diploma, cioè senza venire un giorno. Quanti sono più o meno? Sono meno di 10. A Tirana, se molti non sanno indicare la sede del Ministero dell'Interno loro, tutti invece conoscono perfettamente dove sia l'ambasciata d'Italia e anche se cambiati, i rapporti tra i due paesi restano strettissimi, conferma l'ambasciatore Massimo Gaiani. L'interesse italiano per l'Albania nasce dal momento in cui è caduto il regime comunista. Questo trend è ovviamente continuato e forse la crisi lo ha ulteriormente rafforzato, perché alcune aziende sentono sempre più fortemente la necessità di un'integrazione produttiva con posti dove possono produrre a costi competitivi. E questo chiaramente, anche considerando il percorso che l'Albania sta facendo di avvicinamento all'Unione Europea, è un ulteriore incentivo. Certamente l'Albania nel suo percorso verso l'Europa ha intrapreso tutta una serie di riforme, a cominciare da quello dello Stato di diritto, l'essersi adeguata agli standard europei, e questo certamente facilita molto l'inserimento di aziende italiane che trovano qui degli standard qualitativamente analoghi a quelli europei. 20 anni dopo, dunque, l'arrivo di carrette del mare cariche di albanesi, l'inversione di rotta delle partenze è destinata ad aumentare ancora, insieme ai voli, dall'Italia all'Albania. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.